prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. È stato ricordato nei giorni scorsi l'anniversario del terremoto di Haiti, 12 gennaio 2010, 230.000 morti, più di 300.000 feriti, oltre 1,5 milioni di senza tetto. Dopo 3 anni il paese caraibico, che è uno dei più poveri al mondo, conta ancora 360.000 sfollati nei campi allestiti nella periferia della capitale. Molti degli operatori stanno raccontando di un lento ritorno alla normalità, anche se normalità per Haiti non vuol dire ovviamente ciò che significa per noi normalità. Da qualche giorno, dal giorno dell'Epifania per la precisione, il 6 gennaio, c'è una missione di Caritas italiana ad Haiti per visitare il paese e i progetti che in questi 3 anni sono stati avviati grazie ai finanziamenti raccolti. Ricordiamo che sono stati davvero molti, fu un terremoto che colpì molto anche l'opinione pubblica mondiale. Il 7 gennaio ci sono stati i primi incontri nella capitale Port-au-Prince, all'École Mixte Saint-Charles-Borromée e al centro educativo delle figlie di Maria Ausiliatrice a La Croix des Bouquets. L'8 gennaio la delegazione si è spostata al quartiere di Cité Soleil, dove si stanno realizzando i progetti sviluppati in collaborazione con il VIS, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, promosso dal Centro Nazionale Opere Salesiane. Il giorno successivo, 9 gennaio, progetti per l'accoglienza e la scolarizzazione dei bambini a Titanien. Il 10 gennaio, appuntamento invece a Fondo. L'11 gennaio, venerdì della settimana scorsa, dopo aver visitato Grassier, dove si sta ultimando una scuola realizzata dalla Caritas Svizzera, il gruppo ha proseguito per Leogana, dove è stata ultimata la prima delle 2 scuole comunitarie del MLAL. La delegazione della Caritas italiana è stata guidata dal direttore, Don Francesco Soddu, che all'inizio del viaggio ha sottolineato come, con costante attenzione alla realtà locale e in comunione con le realtà coinvolte, Caritas Italiana continua, nel segno della carità cristiana, a sostenere la popolazione locale con programmi e progettualità per favorire uno sviluppo che parta dai più poveri. In effetti, la Caritas Italiana, fin dai primi giorni dopo il sisma, è stata accanto alla popolazione terremotata, alla chiesa locale, scegliendo di accompagnare la Caritas di Haiti nel medio e nel lungo termine, a sostegno soprattutto delle persone più vulnerabili. Il problema poi spesso è questo, no? Che nell'emergenza si arriva subito o quasi subito e si interviene, però poi c'è un periodo che può essere anche di alcuni anni da vivere e da accompagnare. L'impegno complessivo di Caritas Italiana è rendicontato nel rapporto Haiti, un cammino condiviso, che è stato realizzato appunto per l'anniversario, che segue quelli già pubblicati negli anni scorsi. Complessivamente ad oggi sono stati approvati e avviati 125 progetti di solidarietà per un importo di oltre 17 milioni di euro, pari al 68,8% dei quasi 25 milioni di euro raccolti grazie alla raccolta straordinaria promossa dalla CEI il 24 gennaio del 2010. Di questi soldi, appunto, buona parte sono andati all'ambito socio-economico agricolo, circa un terzo all'animazione, formazione e istruzione, percentuali minori invece al settore idrico-sanitario, all'assistenza degli sfollati, mentre solo il 3,62% di questi 17 milioni sono stati costi di gestione e gestione stessa dell'iniziativa, insomma, per le persone, gli spostamenti e quant'altro. I destinatari sono stati oltre 48.000 persone nell'ambito degli aiuti immediati, 24.000 nell'ambito della ricostruzione, 36.000 nell'ambito socio-economico, 10.000 nell'ambito idrico-sanitario, 4.000 di cui circa metà bambini e giovani nell'ambito dell'animazione, formazione e istruzione. Progetto importante che evidentemente è inserito anche nell'ambito del progetto più grande di Caritas Internazionale, perché questi, ripeto, sono i numeri solamente di Caritas Italiana. Tutti i dettagli anche del progetto, anche con la rendicontazione, la relazione appunto questo documento che vi citavo, Haiti un cammino condiviso, è a disposizione sul sito ufficiale www.caritasitaliana.it. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. E dalle iniziative di Caritas Italiana, quelle della Caritas Veneziana. Citavamo nelle scorse settimane l'interessante appuntamento di condivisione per il Capodanno. C'è stata anche tra la fine di ottobre, l'inizio di novembre, l'iniziativa Prove di un Mondo Nuovo, 72 ore con le maniche in su. Ebbene, Venezia in queste settimane vorrà dire soprattutto Carnevale. Ebbene, perché non passare un carnevale diverso per avvicinare anche i giovani al servizio, un'esperienza di solidarietà appunto in vista della festa di Carnevale con persone che magari hanno bisogno di vivere il Carnevale un po' come lo vivono tutti i turisti che affolleranno Venezia nelle prossime settimane. La data è dal giovedì al martedì grasso, quindi dal 7 al 12 febbraio prossimi. Iniziativa per i cui dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale www.caritasveneziana.it anche per chiedere informazioni sulle modalità di partecipazione. Vi segnalo invece tra i vari appuntamenti in programma sabato 2 di febbraio inizia la scuola di formazione teologico-pastorale Santa Caterina d'Alessandria nel suo modulo Carità per parlare in 6 incontri delle radici del volontariato, in altri 6 incontri della società civile e delle istituzioni pubbliche come soggetto politico della promozione umana. Il riferimento è il centro pastorale Cardinale Urbani a Zelarino e gli orari di impegno sono dalle 9 alle 10:30 appunto del sabato mattina, dal 2 febbraio fino al 4 di maggio. Nei prossimi giorni, già uno questa settimana, incontro di preghiera per il vicariato di Jesolo, un altro sarà giovedì 23 alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza Trento a Jesolo Lido dalle 18:30 alle 19:30. E poi ancora lunedì 4 di febbraio 18:30 a Venezia alla Chiesa del Santo Nome di Gesù in Fondamenta Santa Chiara per il ciclo Appuntamenti con Gesù, i testimoni della fede. Poi in vista della Quaresima sabato 23 febbraio alla Casa di Spiritualità Santa Maria Assunta a Cavallino per tutta la giornata, quindi 9:30-17:30, il secondo Convenire Caritas sulla spiritualità di Quaresima, un appuntamento c'è già stato appunto in occasione dell'Avvento e poi proseguiranno anche gli incontri di preghiera per vicariati. Toccherà il 28 di febbraio, il 7 di marzo al vicariato di Eraclea, questo per quanto riguarda il calendario della Caritas veneziana fino più o meno al periodo di Pasqua. L'iniziativa più interessante però ricordo è quella proprio del Carnevale. Vi invitiamo dunque a contattare la Caritas veneziana www.caritasveneziana.it dove poter chiedere ulteriori informazioni appunto su questo evento che fa parte del calendario 4 esperienze di vita. Una è stata proprio quella del Capodanno, c'è il Carnevale, ci sarà la festa d'estate, poi ci sarà la festa d'autunno con le case che poi sono case di accoglienza e centri proprio della Caritas, il Don Orione, il Don Milani, Casa San Raffaele, Caletizia, Casa San Pio X, il centro Betlemme, il centro Cerchier, l'antica scuola dei Battuti e poi le stazioni di Mestre e di Venezia. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.